Kapat bağla kırsa layık var. Şahiye, şuriye, payara, hop hop. Bentornati a Verba Volant, contenitore sonoro di controinformazione, controculture e inchieste. Come ogni sabato pomeriggio in diretta dalle frequenze di MEP Radio Organizzazione, anche quest'oggi siamo qui dalle 14 alle 15 a tenervi compagnia. Ma come al solito iniziamo da subito con i nostri contatti. Innanzitutto l'indirizzo del nostro blog www.noblogs.org, il sito, il blog nel quale potete trovare tutte le vecchie puntate di Verba Volant e anche notizie, informazioni e quant'altro. L'indirizzo email verbavolant@mepradio.it e l'indirizzo di posta cartacea tradizionale al quale potete inviarci qualsiasi tipo di materiale, Verba Volant, presso MEP Radio Organizzazione, via Angelo Maria Ricci 91 02100 Rieti. Bentornati a tutti i nostri radioascoltatori per questa, diciamo così, ennesima puntata appunto di Verba Volant. Prima di partire con la puntata di quest'oggi volevamo fare così una comunicazione. Come ovviamente tutti gli anni, avvicinandosi verso l'estate, per diciamo un po' quelli che sono i mutamenti un po' della programmazione qui all'interno della radio, ovviamente ci sarà diciamo il solito fermo appunto per questi mesi estivi. Indicativamente l'ultima puntata dovrebbe essere quella del primo sabato di giugno, ma comunque nelle prossime puntate avremo modo di parlarne meglio e quindi di informarvi su questo mutamento. E quest'oggi, appunto, questa terz'ultima puntata, a quanto sembrerebbe, parleremo di un, diciamo così, di un anniversario che cade proprio in quest'anno, non diciamo precisamente in questi giorni così di maggio, ma un po' proprio tutto l'anno. È il quarantennio, appunto, del 68, di questo questo anno che rappresenta un po' diciamo la nascita, lo sviluppo, il mutamento vero e proprio della società italiana, di una nuova società che ha abbracciato un po' tutti i livelli appunto di questo Stato, da quello politico a quello sociale, a quello dei rapporti tra le persone, per passare un po' a tutto, diciamo così, tutte le branche della conoscenza e soprattutto ad esempio del lavoro e della scuola. Appunto cercheremo decideremmo di fare così, diciamo, una sorta di viaggio per quello che è stato il 68 e che rappresenta tutt'oggi, un viaggio che ovviamente non può essere altro che una sintesi, seppur diciamo così molto approcciata, ma comunque porteremo soprattutto avanti, diciamo così, alcuni esempi di quello che è stato il 68 e di quello che rappresenta ancora oggi, proprio qui nel caso nostro, nel caso dell'Italia, anche se ne spenderemo due parole proprio da dove è nato un po' diciamo il 68, quindi dagli Stati Uniti d'America e da un po' dal movimento studentesco e quello diciamo per i diritti alle persone di colore, che sono un po' stati la valvola di sfogo appunto di questo movimento. Movimento di protesta, come appunto abbiamo iniziato ad accennare poco fa, nacque negli Stati Uniti, un movimento di protesta che fa principalmente capo a due posizioni non contrastanti ma pienamente affini. Tutto quel movimento, quella protesta giovanile che si schierò fortemente ed aspramente contro la guerra nel Vietnam, che proprio in quegli anni il governo americano stava conducendo. Proprio in questi stati si combattevano l'unificazione tra il Vietnam del Nord e il Vietnam del Sud. Appunto al Nord vi era un governo comunista, mentre al Sud vi era un governo filo americano. È una guerra che si protrae per diversi anni, come appunto tutti sappiamo, la quale gli USA si ritirarono da questo conflitto soltanto nel 1974, appunto per l'impossibilità di vincere questa guerra. La partecipazione a questa guerra nel Vietnam scatenò diverse appunto reazioni contrastanti, non solo negli Stati Uniti, che in qualche modo erano i diretti interessati, ma anche in tutto l'Occidente o anche in tutto il mondo. L'altra parte in cui si formò questa protesta giovanile che esplose in questi primi anni 60 fu caratterizzata da quello che possiamo chiamare il movimento americano per i diritti civili. Nato nelle università del Nord, il movimento studentesco in qualche modo si era dato come obiettivo essenziale l'attuazione della democrazia, garantendo quei principi costituzionali che appunto la democrazia americana aveva ampiamente negato all'organizzazione della società, tollerando persistentemente la segregazione razziale che continuava e persisteva negli stati del sud, reprimendo anche quelle forme di opposizione al sistema e favorendo in qualche modo appunto il militarismo e la guerra nel Vietnam. nell'Università del Nord si proliferava questo movimento studentesco, negli stati del Sud era nato un movimento ben diverso. Già dalla fine degli anni 50, infatti, era venuto maturando un vero e proprio movimento nero per l'uguaglianza, promosso dalle stesse comunità di colore che appunto subivano la segregazione razziale ancora presente negli stati del Sud. Cito soltanto qui uno degli episodi più significativi che si verificò addirittura nel 1955, quando ci fu un vero e proprio boicottaggio sugli autobus in Alabama, appunto per far fronte alla protesta contro la segregazione razziale. I miei contatti sono sempre gli stessi. Il dibattito all'interno della società americana si scatenò ampiamente anche riguardo al discorso della segregazione razziale. Si temeva che lo sviluppo di questo movimento nero che si era appunto costituito negli stati del Sud portasse alla fine dell'esclusione di fatto della popolazione di colore dal voto, che ancora appunto era praticata in tutti gli stati del Sud. Quello che si verificò in questi anni, a partire dall'inizio degli anni 60, fu un vero e proprio movimento di appoggio. Molti studenti di molte università del Nord che seguivano con attenzione quello che si stava verificando negli stati del Sud, appunto si ritrovarono a fare delle vere e proprie marce, denominate diciamo marce al Sud, in cui massicce campagne di persone, di studenti principalmente, iniziarono a spostarsi in questi territori, dando vita a delle vere e proprie campagne diciamo con il compito di proteggere il diritto al voto della popolazione di colore. Furono numerose, come possiamo immaginare, le proteste molto violente di rivolta che si scatenarono da una parte gli studenti e il movimento nero nel sud e dall'altra diciamo le forze dell'ordine e i leader politici che venivano di malocchio questa diciamo piccola alleanza tra i due gruppi. Furono molti gli assassini e i linciaggi, ma nonostante la perpetrata violenza e nonostante tutto, il movimento ottenne dei significativi successi politici, contribuendo sostanzialmente al superamento della segregazione razziale. Fammi entrare per favore. Questo è particolare, diciamo, proteste così fecero un po' scuola proprio nel periodo che dagli anni 60, in particolare diciamo dalla metà degli anni 60, e anche qui in Europa, per dire, ma anche in altri paesi mondiali in qualche modo si vedeva l'esempio americano. Questo movimento portò degli elementi di novità nei cosiddetti questi movimenti giovanili che si stavano quasi sviluppando in quei pochi anni. Era ritenuto estremamente importante in quel periodo il riferimento alle lotte dei popoli del terzo mondo, ma anche alle rivoluzioni del mondo arabo. Si guardava con interesse anche all'Asia e soprattutto a Cuba. Le agitazioni, appunto, promosse dai movimenti giovanili si diffusero principalmente in tutte le aree del pianeta, soprattutto a partire dalla fine del 67 ed esplodendo, come sappiamo, nel 68. Ma che cosa è questa vita, tutto è facile e semplice, troppe cose stanno attorno a me, sono ridotto all'eccesso e non all'osso, non voglio più essere così, ma vivere come un primitivo, sì, buttare via il mio PC, non posso continuare così, non posso. E in effetti a livello mondiale, sul territorio appunto del pianeta, c'erano in quegli anni veramente svariati motivi di interesse, soprattutto per chi voleva in qualche modo mutare il mondo e che comunque non avesse, diciamo così, una sua, non si specchiasse nel mondo, nella società di quel periodo come una sua possibilità di vita. Solamente, diciamo così, per fare una sorta di elenco veloce, non ci possiamo scordare come nell'ottobre del 67 Che Guevara, appunto, quello che sembrava un po' il simbolo da una parte del social comunismo, ma dall'altra parte soprattutto della ribellione giovanile contro un po' il potere, veniva appunto assassinato in maniera molto strana e soprattutto senza sapere precisamente il motivo e soprattutto il mandante, in Bolivia. Ma oltre adesso ci sono molti altri motivi di interesse per i giovani di quel periodo, come ad esempio la Cina, un po' con, diciamo, tutto il movimento maoista che si protrarrà soprattutto nel nostro paese fino agli anni 80, che proprio in quel periodo, stiamo parlando tra il 66 e il 68, vede l'inizio di quella rivoluzione culturale che vedeva i giovani operai, ma soprattutto i giovani studenti della Cina in prima linea contro, diciamo così, le vecchie guardie, un po' contro quella che era, diciamo così, la vecchia cultura. Ma per tornare, diciamo così, per arrivare nel nostro, nella nostra Europa, proprio qui ci fu forse uno dei focolai maggiori del 68 a livello mondiale, per motivi, diciamo così, politici interni a quella che era l'allora URSS, l'Unione Sovietica, con tutto il patto di Varsavia e quindi con tutti gli stati un po' satellite che facevano parte dell'economia appunto della Russia, per motivi politici appunto salì, diciamo così, al potere proprio nell'Unione Sovietica Brezhnev. Diciamo, questa personalità era un po', diciamo così, una sorta di svolta in senso negativo. In effetti, se nel passato in Russia c'era stata una sorta di voglia, una sorta di volontà di riformazione appunto del paese, proprio con questo diciamo nuovo presidente si ebbe proprio una svolta in senso negativo, avendo proprio una sorta di vera e propria reazione per questo paese e quindi indirettamente per tutti, diciamo così, i paesi ad essi collollari. E appunto importantissima, soprattutto passata la storia, fu tra i vari paesi che si ribellarono in qualche modo a questa svolta e quindi, diciamo, al gioco, al potere dell'Unione Sovietica, fu appunto la Cecoslovacchia, passata la storia con quella, diciamo così, svolta politica chiamata la Primavera di Praga. E effettivamente, appunto, in quel periodo la Cecoslovacchia arrivò al centro dell'attenzione, riuscendo a catapultarsi a livello mondiale, diciamo così, dalla sua realtà provinciale, tra virgolette, all'interno della realtà del patto di Varsavia, e raggiungendo appunto, diciamo così, addirittura un interesse da parte dell'Unione Sovietica con le immagini tristemente famose dei carri armati, dell'esercito appunto inviato in Cecoslovacchia per soffocare un po' i moti che avevano preso adito un po' a 360 gradi all'interno di tutta la società cecoslovacca. Ma per parlare, diciamo così, dei paesi più affini con il nostro, quindi la Germania e la Francia, forse proprio in questi due, soprattutto nella Francia, ci fu un po' quella che era, diciamo così, la svolta di maggiore importanza. In Germania, anche se in qualche modo partito di soppiatto, si ebbe appunto un movimento di lunga, diciamo così, gettata, un movimento un po' molto simile a quello italiano, un movimento che purtroppo, come in Italia, scaturirà nella lotta armata, in quella RAF tristemente famosa per appunto la sua brutalità. Ma appunto è soprattutto in Francia, in quel maggio fatto, diciamo così, passare alla storia come un po' la nascita del 68, diciamo così, a livello studentesco, che diciamo così si possono trovare molte affinità. Effettivamente tutto diciamo partì in Francia con una legge, diciamo, che riuscì a far unire, cosa in qualche modo diciamo una vera e propria prima volta per quanto riguarda la storia, appunto gli operai con gli studenti in una lotta politica nei confronti appunto dello Stato. Appunto con una riforma che lo Stato aveva in qualche modo attuato, si era mirato, diciamo, a rendere maggiormente selettiva all'università, applicando appunto una sorta di doppio, diciamo così, coltello, un coltello appunto che da una parte tagliava un po' drasticamente quelli che erano i studenti appunto all'interno delle scuole, facendo una selezione che praticamente dava a un esiguo numero di persone la possibilità di poter studiare, e dall'altra parte appunto applicava, diciamo così, un peso gravoso nei confronti della classe operaia, che vedeva appunto richiesta un incremento della produttività che sembrava proprio una sorta di ritorno all'Ottocento con diciamo così la rivoluzione, la seconda rivoluzione industriale. E proprio in Francia ci fu anche un altro accostamento, quello tra gli studenti e i professori appunto progressisti. Questa rivolta che partì da Nanterre, un'università, diciamo così, un po' provinciale, da qui appunto si decise di scioperare insieme professori e studenti, e successivamente appunto la protesta si allargò a tutta la Francia, fino ad arrivare appunto all'occupazione della stessa Sorbonne, l'università di Parigi, diciamo così, un po' il fiore all'occhiello dello studio dell'informazione appunto francese. E d'altra parte appunto vanno ricordate appunto ai giovani che capeggiavano il movimento, come ad esempio l'anarchico Daniel Cohn-Bendit, che crearono un vero e proprio movimento dal nulla che c'era in precedenza, riuscendo ad applicare pratiche politiche che anche attualmente diciamo dovrebbero venire a essere studiate per la loro lucidità e soprattutto per la loro attualità nei confronti del potere, non inteso principalmente come Stato, ma un po' a 360 gradi, quindi denunciando anche in quel periodo quelle che erano diciamo quelle attuali potentati economici che vengono denominati multinazionali. E anche qui, solamente con la presa forte del potere da parte di Charles de Gaulle, si riuscì a fermare, a placare, diciamo, appunto la rivolta, non senza aver dato, diciamo, delle vittorie al movimento stesso, delle vittorie che appunto successivamente continueranno a essere sfruttate da tutta la popolazione. E soprattutto diciamo, questa sorta di sconfitta attuata con il potere di Charles de Gaulle e con il governo successivo, diciamo un governo veramente gollista come quelli del dopoguerra, fu solamente attuata questa sorta di sconfitta solo perché la CGT, la Confederazione Generale del Lavoro, dichiarò appunto, raggiunse un accordo con lo Stato, e solamente con, diciamo, la divisione tra gli operai e gli studenti lo Stato riuscì appunto a fermare questo movimento che sembrava sempre in ascesa. Tenti tenere un decoro, gli uomini perfetti profumano d'oro. Quando devi fare qualcosa in grandezza, le buone maniere, una buona scioltezza. Se vuoi diventare un vero signore, devi imparare le buone maniere. Ma vedo che basta poco e prendi fuoco, tu non conosci le buone maniere. Devi imparare a stare con gli altri. Se vuoi diventare un vero signore, devi imparare le buone maniere. Ma vedo che basta poco e prendi fuoco, tu non conosci le buone maniere. Devi imparare a stare con gli altri. Sull'ondata di ciò che si stava verificando nel mondo, come abbiamo visto partendo dagli Stati Uniti ma anche qui vicino a noi, anche in Italia il movimento del 68 si viene raggiunto. In realtà questa contestazione parte da una considerazione un po' diversa rispetto magari a quella che ha scatenato quelle famose proteste nelle università francesi, soltanto per fare l'ultimo esempio. In Italia la contestazione fu, diciamo, il risultato di un vero e proprio malessere sociale profondo, accumulato nel corso degli anni 60, dovuto appunto al fatto che questo sviluppo economico che si era verificato così intensamente e improvvisamente nel nostro paese, il cosiddetto, diciamo, boom economico, e della stessa borghesia, non era stato accompagnato da un'altra parte da un adeguato aumento del livello sociale ed economico delle classi, diciamo, più basse e più disagiate. L'esplosione degli scioperi degli operai in fabbrica si saldò infatti fortemente e brevemente con il movimento degli studenti che si andava costituendo proprio in quegli anni. Gli studenti che contestavano i contenuti arretrati e parziali in cui riversava l'istruzione italiana, e rivendicavano l'estensione del diritto allo studio anche ai giovani appartenenti a quelle condizioni economiche più disagiate. In realtà le occupazioni in qualche modo iniziarono già a partire dal 1966, quando inizialmente iniziarono ad occupare scuole ed università, e si iniziarono anche ad organizzare manifestazioni che in moltissimi casi portarono comunque a scontri più o meno violenti con la polizia. C'è una data in qualche modo che fa risalire alla prima occupazione e alla nascita del movimento degli studenti vero e proprio, che è il 24 gennaio del 1966, quando a Trento, una quasi cittadina di provincia, ci fu la prima occupazione di una università italiana ad opera degli studenti che occuparono la facoltà di sociologia. Questa occupazione tuttavia si concluse a causa del famoso alluvione del 1966 che interessò gran parte dell'Italia settentrionale e centrale, il famoso alluvione che si concentrò principalmente nella città di Firenze. A quell'epoca, nel 1966, moltissimi studenti si mossero come volontari per portare aiuto nelle aree più colpite. Sono famosissime le immagini che riportano gli studenti che fanno degli interventi per salvaguardare le biblioteche colpite dalle alluvioni appunto nella città di Firenze. E questo primo movimento ed incontro in qualche modo spontaneo dei giovani provenienti da tutta Italia contribuì a far sorgere la nascita e lo spirito di appartenenza di una classe, di una vera e propria classe studentesca, un sentimento che prima di allora era quasi sconosciuto. Non ho nemmeno il tempo di metterlo dentro, che il CD africano è volato via. Disco volante flow marziano che vola via sopra di me. Guarda l'alieno che osserva me. Le prime contestazioni comunque degli studenti furono inizialmente sottovalutate dalla classe politica, ma anche dalla stessa stampa. Tuttavia ci fu diciamo una contestazione che si saldava, come abbiamo visto, così fortemente alla lotta studentesca, che era appunto quella del movimento dei lavoratori. Prendono origine le agitazioni per il rinnovo di molti dei contratti di lavoro, per l'aumento dei salari uguali per tutti, per la diminuzione dell'orario di lavoro, per il diritto alla pensione, alla casa, alla salute, ai servizi. Per la prima volta, diciamo, il mondo dei lavoratori e il mondo studentesco, come abbiamo visto, sono uniti nelle prime agitazioni che si verificano in tutto il paese, provocando un susseguirsi di tensioni sempre più radicali e in qualche modo a carattere rivoluzionario, che sfiorarono quasi l'insurrezione. La Fiat di Torino in quegli anni, dopo alcuni incidenti causati da atti di sabotaggio alle catene di montaggio, dove appunto vennero distrutte anche diverse migliaia di auto, reagì sospendendo oltre 25.000 operai dopo giorni di inutili mediazioni, e in qualche modo questa situazione sfiorò il dramma. Si verificò una mobilitazione generale e ci fu il tentativo di occupare l'azienda. Dopo mesi di agitazioni, mettendo la città di Torino in crisi, oltre tre mesi senza salario per gli operai, per i lavoratori, tutte le attività produttive e commerciali della stessa città vennero paralizzati. Il 21 dicembre venne fatto una vera e propria mediazione tra il governo e le lotte dei lavoratori e gli stessi sindacati. Vengono accolte quasi tutte le richieste degli stessi sindacati e ritorna quasi una calma apparente, ma gli operai, appunto, grazie a queste lotte otterranno diversi risultati: aumento appunto salariale, gli interventi del sociale, delle pensioni, minore ore lavorative, diritti d'assemblea e consigli di fabbrica, tutte quelle riforme che in qualche modo sfoceranno nel cosiddetto statuto dei lavoratori, che verrà poi siglato negli anni 70. Che mi parli d'amore quando tutte e due sappiamo benissimo cos'è l'amore. Ma se per il movimento operaio ci fu una parziale vincita, comunque delle soddisfazioni che appunto il movimento riuscì a rivendicarsi rispetto al patronato, c'è un episodio a parte per quanto riguarda il movimento studentesco che va in qualche modo sottolinea quello che si è verificato appunto all'interno del movimento studentesco proprio in quegli anni. È la cosiddetta battaglia di Valle Giulia, un episodio che si è verificato il 1 marzo del 1968 ed è un noto scontro di piazza tra manifestanti e polizia, in cui diciamo i manifestanti accorsero per riconquistare la facoltà di architettura a Roma ed attaccarono la polizia che presidiava appunto la facoltà. La facoltà era stata sede di numerose iniziative politiche, molte delle quali tuttavia coordinate dai docenti dello stesso Ateneo, e si era giunti all'occupazione propria della facoltà da parte degli studenti. Per far fronte a questo problema di carattere diciamo di ordine pubblico, la stessa facoltà era stata sgomberata dalla polizia che era chiamata dallo stesso rettore. Questo è il nostro condominio, abbiamo il nostro dominio, il nostro amore capriccioso, mai nulla di noioso. Proprio il 1 marzo del 1968 circa 4.000 persone si radunarono in piazza di Spagna a Roma per formare un corteo, ma il corteo si divise ben presto in due schieramenti diciamo diversi. Da una parte ci si mosse verso la città universitaria, mentre la maggioranza degli studenti si diverse verso proprio Valle Giulia con l'intento di liberare la facoltà dalla polizia che appunto presidiava gli edifici. Gli studenti fronteggiarono con un imponente cordone le forze degli ordini e ci furono degli scontri proprio violenti tra studenti e forze dell'ordine. Gli scontri degenerarono in tutta l'area universitaria e quello che ne conseguì da quella vera e propria battaglia che si verificò nei pressi di Valle Giulia è un bollettino di feriti sia da una parte che dall'altra. Si registrarono infatti oltre quasi 150 feriti tra le forze dell'ordine e oltre 450 feriti tra gli studenti. Ci furono inoltre 4 arrestati, oltre 200 studenti fermati, ma si verificarono appunto disordini anche di carattere pubblico. 8 automezzi della polizia furono incendiati al di fuori della facoltà e ben 5 pistole furono sottratte agli stessi agenti. In questo nostro condominio, abbiamo il nostro dominio, il nostro amore capriccioso. La protesta giovanile che si era scatenata appunto tra la metà degli anni 60 e come abbiamo visto trova il suo culmine per tutto il 1968, tuttavia brevemente si spense all'inizio già degli anni 70, in qualche modo senza riportare risultati significativi in tutti i paesi in cui sfociarono queste proteste. La principale ragione che viene additata a questo parziale fallimento, in qualche modo va ricercata nella sua incapacità di tradurre queste aspirazioni in programmi diciamo concreti e in strutture organizzative che erano in grado appunto di realizzare questi programmi e questi progetti di uguaglianza. Il 68 tuttavia si caratterizzò come una rivolta etico-politica molto forte. In tutto l'Occidente si misero al centro dell'attenzione valori che fino a poco tempo prima erano stati, diciamo, interessi soltanto di pochi. Temi come il pacifismo, l'antirazzismo, il rifiuto del potere diciamo come forma di dominio di pochi privilegiati sulla popolazione, i diritti delle donne, ma anche l'interesse per l'ambiente, furono tutti dei temi che entrarono prepotentemente, grazie anche a quello che si verificò in questi anni, a partire appunto dalla metà degli anni 60. E queste tematiche entrarono in qualche modo a far parte stabilmente diciamo del dibattito politico mondiale, ma anche del dibattito politico non solo ma socio-culturale appunto del mondo intero. Sesto senso, non sbaglia un colpo, e ti tiene sveglia, io non sbaglio un colpo, e io ti do il ritmo. E appunto, se molto spesso viene considerato il 68 come una sconfitta, soprattutto nel nostro paese, a nostro, diciamo così, modesto parere, non può essere considerato così. Effettivamente quel cambiamento radicale sociale, politico, dei rapporti, un po' di tutti, diciamo così, gli aspetti della vita delle persone, dei cittadini italiani, manifestarono successivamente negli anni immediatamente successivi, ma anche diciamo così al passare di numerosi lustri. Basti pensare ad esempio alle vittorie ad esempio negli anni 80 contro il nucleare, e si potrebbe appunto rivalutare il 68 come qualcosa di veramente fondamentale per la storia italiana e soprattutto per i diritti dei cittadini. E proprio per questo motivo volevamo presentarvi, diciamo così, due aspetti che abbiamo, diciamo così, un po' studiato in vista di questa puntata. Due aspetti che uno ci riguarda, diciamo, un po' personalmente, per quello che cerchiamo di fare appunto con questa trasmissione, e l'altro per la bellezza appunto che esso ha e per la rivalutazione di diciamo così persone tra virgolette diverse che normalmente in passato venivano trattati veramente da animali. Resti in equilibrio. Ora vedo che non hai più paura, ora sei come me. E appunto, diciamo, il primo aspetto di cui volevamo, per il quale volevamo spendere alcune parole, era quello dell'informazione. Se vi è capitato mai, come è capitato a noi personalmente proprio nei giorni scorsi, di vedere un giornale precedente agli anni 70, si vede proprio come la, diciamo così, logica dei giornali era qualcosa di molto differente da anche diciamo i titoli più blasonati che leggiamo quest'oggi, che possiamo leggere e acquistare in un'edicola. E appunto proprio quel movimento, il 68, la voglia di un'informazione differente, il bisogno di qualcosa che non erano appunto i soliti giornali come il Corriere della Sera o la Stampa, con diciamo la loro formalità e la loro schematizzatezza, appunto portò alla nascita di un vero e proprio movimento, non solo di giornali ma proprio di informazione, che venne definita poi successivamente controcultura. tutto, tra virgolette, può essere fatto risalire nell'aprile del 1971, quando un gruppo diciamo di ragazzi molto attivi politicamente crearono quello che è il manifesto che, anche se molto mutato, tutt'oggi si può comprare in edicola. Appunto, un po' una scommessa questa del 71, un po' una sorta di gioco contro, diciamo così, il ben pensare, contro la società normale, ma una scommessa che, vedendo i risultati di oggi, comunque un giornale che è riuscito a mantenersi senza finanziamenti, comunque senza perdere un po' quelli che erano i suoi caratteri fondanti, e arrivare appunto qui fino a noi. Ma proprio come prodromo anche del appunto del 68, fu un po' quella che quella nascita di quella realtà che viene definita come quella delle radio libere. Appunto, fu nel 75 a Milano, una città molto differente, diciamo, da quella grigia di adesso, una città che fu proprio il motore del movimento, soprattutto successivamente al 68, nacque appunto la prima radio libera. Anche qui un gruppo di ragazzi, un gruppo di militanti, che crearono questa radio chiamata Canale 96, una radio che successivamente alla sua chiusura venne, diciamo così, un po' rimpiazzata, forti di quell'esperienza, da Radio Popolare, la radio che tuttora trasmette diciamo in Lombardia, ma che potete ascoltare anche dalle frequenze di MEP Radio, e che è una radio che comunque riesce a ancora a fare un'informazione che possiamo definire comunque libera. Ma anche a Roma, sì, proprio per quanto riguarda le radio, nacque proprio in quegli anni un'altra radio molto importante, Radio Città Futura, appunto, una radio che nel 76 vide la nascita. È una radio che, nonostante gli attacchi dei fascisti che numerose volte cercarono di distruggerla e di incendiarla, nonostante diciamo così gli attacchi da parte dello Stato, nonostante diciamo lo scontrarsi con la cultura ben pensante, riuscì in qualche modo a Roma, nella capitale, a fare una cultura molto differente, e una cultura, un'informazione che comunque sdeviava molto da quelle che erano le radio nazionali, un po' quelle che si rifacevano alla RAI di quel periodo. E per concludere questa carrellata, non si può diciamo non citare un libro che ha fatto storia, un libro che molto spesso viene veramente visto come il libro fondante di una certa controcultura nel nostro paese. Ovviamente stiamo parlando di La strage di Stato, libro che riedito proprio ultimamente creò molto scalpore, soprattutto diciamo venne additato come totalmente inattendibile. E proprio diciamo ultimamente, addirittura una commissione parlamentare d'inchiesta proprio sul terrorismo di quegli anni ha dichiarato che forse proprio quel libro, questo diciamo così documento fatto da un gruppo di militanti bolognesi, era proprio diciamo un po' lo specchio più limpido, diciamo il documento più reale su quella che era la soluzione, la situazione appunto di quegli anni sul terrorismo, sul doppio gioco, se così possiamo definirlo, dello Stato, avendogli dato diciamo così una sorta di verità di fronte alla storia. È comunque un libro che ancora oggi vi consigliamo di leggere, appunto perché la lucidità di questi ragazzi, di questi attivisti che scrissero quel libro, oggi è difficile trovarla veramente diciamo in tutte le, diciamo, le varie frange politiche del nostro paese. E appunto il 68 fu anche l'anno in cui Franco Basaglia, un psichiatra che si potrebbe definire un antipsichiatra, scrisse appunto il libro che cambiò drasticamente la realtà dei manicomi appunto del nostro paese. prima di questa data, prima della scrittura di questo libro, all'interno di queste strutture dello Stato, persone che per la loro diversità, per problemi, per malattia, per qualsiasi diciamo motivazione, venivano appunto trattati in maniera veramente abnorme, con elettroshock ripetuti più volte al giorno e soprattutto con una privazione sociale che diciamo non faceva altro che annientare totalmente quella che erano diciamo la volontà, ma soprattutto le possibilità di queste persone. La scrittura di questo libro non si ebbero grandi diciamo così grandi vittorie. Ci vollero 10 anni, fino al 1978, quando ci fu l'approvazione della legge 180, approvazione che in qualche modo chiuse, anche se non nel breve periodo, ci vollero anni prima che effettivamente vennero chiusi appunto gli ospedali psichiatrici. Le immagini che ancora oggi si possono vedere dell'ospedale appunto Santa Maria della Pietà a Roma, nel momento appunto che veramente la massa portò fuori queste persone che vebbero in qualche modo per la prima volta una vita tra virgolette normale. E appunto proprio questo fu un'altra vittoria secondo noi di quel periodo. Pensare in precedenza di quella rivolta culturale, di quel stravolgimento che fu il 68, un discorso del genere, cioè rivalutare il, diciamo, i diversi, i matti come venivano definiti precedentemente, come persone che hanno i loro diritti, che non hanno minimamente bisogno di essere rinchiusi all'interno di una struttura, ma anzi che hanno bisogno di, appunto, di essere avvicinati da altre persone, che hanno bisogno di una socialità ancora maggiore di chi non ha problemi, fa capire come il 68 veramente era stato una vera e propria rivoluzione, non solo politica ma soprattutto sociale e culturale. E proprio a questo confronto, vedendo alcuni diciamo così esperimenti che oggi si iniziano a fare anche nel nostro paese, basta pensare ad Anversa, il piccolo paese vicino Sulmona, nella nostra vicina regione Abruzzo, come il bar Zapatista aperto a Torino, interamente gestito appunto da dottori e dall'altra parte da persone che sarebbero definiti malati appunto dai psichiatri, fanno capire come effettivamente forse il problema non è stato mai in qualche modo preso nella giusta maniera e che forse la soluzione migliore per diciamo vivere anche per queste persone è quella di non essere definite diverse da chi ha la fortuna, diciamo così, di poter guidare un'automobile o comunque di avere un lavoro a tutti gli effetti. Ci sembrava dovuto quindi fare questa puntata per in qualche modo celebrare il nostro 68, nonostante la nostra giovane età, in qualche modo per ribadire che questo 68, nato come un movimento spontaneo e di ribellione, ha in per sé un carattere internazionale, una prospettiva di rottura che ha coinvolto, ha investito tutti gli ambiti della vita quotidiana, non solo quelli politici ma soprattutto quelli esistenziali del nostro paese. Ha dato infatti importantissimi contributi negli anni successivi per quanto riguarda tutte quelle battaglie civili che si sono verificate nel nostro paese. Abbiamo parlato dello Statuto dei Lavoratori, abbiamo parlato del referendum sul nucleare, ma possiamo ricordare l'aborto, il divorzio, una nuova legislazione sulla scuola e dell'università. Ha prodotto dei cambiamenti sociali sostanziali e radicali, diciamo anche dal punto di vista del costume, della musica, dei rapporti sociali e interpersonali, per non parlare anche del linguaggio, ma anche dei diritti dei bambini. La grande attenzione appunto per questo movimento è quello che si è verificato in quegli anni, è un vero e proprio movimento internazionale, un'apertura cosmopolita che si è verificata nel nostro paese in quel periodo e che tuttavia si è, diciamo, fermata là, non si è più verificata ulteriormente in questi ultimi anni. La sensazione, diciamo, di questa esistenza di un pianeta in qualche modo giovanile che poteva con il suo spirito e con la sua voglia di fraternità e di cambiamento sostanziale e sociale prendere in mano le sorti del mondo e contribuire sostanzialmente a cambiare, a sovvertire l'ordine naturale delle cose. Oltre a quegli aspetti che abbiamo, diciamo, abbiamo citato poc'anzi, sono moltissimi altri gli aspetti che il 68 ha coinvolto appunto nel nostro paese, una vera e propria riforma culturale e sostanziale della vita. Questa puntata è scaturita anche da un altro bisogno che noi avevamo. Speriamo che il 68 non faccia la fine di quello, diciamo, di tutto quello che va sotto il nome resistenza, che purtroppo si sente sempre più dire. Persone che dichiarano di essere revisioniste davanti a una telecamera non hanno vergogna di quello che stanno dicendo. La resistenza che purtroppo oggi sembra ogni giorno perdere un mattone in quel muro invalicabile, in quel muro che ha fondato un po' lo Stato italiano, la nostra democrazia, ma soprattutto la nostra civiltà negli ultimi 60 anni. E appunto la resistenza vorremmo che venisse rivalutata, ma come speriamo che il 68 non faccia la sua fine, che tra un po' non si senta dire appunto solo le negatività di esso, soprattutto da persone con vestiti scuri che continuano a essere sempre più presenti nel nostro paese. E vorremmo appunto che dal 68, ma da tutto quello che ne è scaturito successivamente, ma anche dalla resistenza, si cerchi in qualche modo di creare un nuovo paese, un paese molto differente da quello che c'è oggi, un paese che purtroppo corruzione, mala politica e soprattutto ideologie sbagliate hanno portato allo stato attuale. E appunto vi invitiamo tutti quanti a riscoprire un po' il 68. Ci sono numerose pubblicazioni uscite proprio in questi giorni, numerose, diciamo, sono inflazionate ovviamente per un discorso di tempo e soprattutto per le vendite che le grandi case editrici vogliono fare solo perché sono i 40 anni del 68, ma ovviamente ci sono anche molti spunti che vi potrebbero, diciamo così, generare un interesse che in questi pochi mesi di questo 2008 è nato in noi. verbavolant@mepradio.it, l'indirizzo mail. E prima di salutarci, ovviamente l'indirizzo del blog che vi consigliamo di visitare ogni volta che volete, www.noblogs.org. L'appuntamento è la settimana prossima e ciao. Ciavoro pistol ci ci ciaie sugli e vai. Fucchi zorize ciavoro bobolize ciaie sugli e pagliera. Ciao robobolice, ciao, suji e paglera, oppa!